Florecerá el canelo, también la flor del tiempo, como respeto de Machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra, inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. Bueno, primero, por parte de la Red Internacional de Defensa del Pueblo Mapuche, te agradezco mucho por tu tiempo. Nosotros somos la parte de Milano y Roma, Italia. E primero innanzitutto da parte dell'area Mapuche ti vorrei ringraziare per il tuo tempo, ti vorrei chiedere come stai e soprattutto so che sei da 8 mesi preso per il tuo senza un motivo specifico, so che hai avuto un nuovo giudizio, vorrei sapere intanto come stai. Mai è un tabù, un saluto a tutte le persone che mi stanno ascoltando in quella terra. Tra di voi ci sono genti mapuche che mi stanno ascoltando tramite questa intervista e nella vostra terra vi mando un abbraccio, gli mando un abbraccio cordiale, fraterno, un saluto grande dal penitenziario federale Unità 14 di Esquel, nel sud del territorio mapuche, oggi occupato dal colonialista e capitalista Stato argentino. Come dicevi, a fine febbraio saranno 8 mesi che sono qui ad aspettare un nuovo illegale e illegittimo processo per vedere se mi estradano in Cile oppure no. Un processo che sta tardando da diversi mesi, ma nonostante questo mantengo il morale alto, cercando di continuare ad affrontare la lotta contro l'interesse capitalista, le imprese transnazionali. Per mantenere viva la nostra cultura, ma soprattutto per mantenere viva e tenere alta la nostra cultura, la nostra nazione millenaria e originaria. Il territorio che difendiamo è legato al nostro essere mapuche e questo, il nostro essere anticapitalisti è naturale, e questo purtroppo ci porta a confrontarci con questo sistema di morte e oppressione. Bueno, aquí, como sabes, Benetton pertenece a mi país. Por eso me gustaría que me contaras también qué significa. Come sai, Benetton appartiene al mio paese, è italiano, quindi mi piacerebbe che ci raccontassi cosa significa vivere in un territorio occupato da un proprietario terriero come Benetton, con tutta la sua forza, e quali sono i progetti che ha, oltre a quelli della moda. So che ha progetti molto invasivi nel vostro territorio, in particolare vicino al territorio, nel territorio dove si trova Cusham, il pull off in resistenza. Benetton è uno dei principali proprietari dell'Argentina. Hasta discúlpame è anche il colpevole che tu sia agli arresti, sì, giusto? Sì, tra le altre cose. Comunque è il maggiore proprietario terriero qui in Argentina, è quello che ha la maggiore quantità di terra nel paese, più di 1,5 milioni di ettari. Come dicevi, non è neanche criollo, è italiano. Diciamo, tiene una facciata di imprendimento ganadero, no? Con la cría de ovejas y saca lana para la ropa. Básicamente ha questa facciata di imprenditore, di allevatore, alleva le pecore che gli servono per la sua lana, per i suoi vestiti, ma in realtà dietro a tutto questo si nascondono progetti come per esempio la sua impresa mineraria, la Minsur, e altri progetti che svolge nel territorio che ha usurpato. Tra l'altro ce n'è anche uno petroliero e tanti altri. Nello stesso tempo noi abbiamo capito che questo governo, quello di Maurizio Macri, gli darà delle concessioni per aprire i cantieri per l'autostrada a Buenos Aires e in altre parti del paese, sempre con imprese del gruppo Benetton. Bueno, y este gobierno, desde que, si bien nosotros hemos enfrentado también all'epoca del kirchnerismo. Ma prima di questo governo abbiamo anche affrontato l'epoca del kirchnerismo, anche se in effetti sono loro che hanno affrontato noi. Ma questo governo è più retrogrado, reazionario, di ultradestra, ha delle grandissime alleanze con questi gruppi transnazionali e governa per loro. Di fatto noi stiamo affrontando Benetton, ma c'è anche per esempio la Levis, che ha un intero lago solo per sé, il lago Escondido per esempio, ed è proprietario della maggior parte dell'energia elettrica del paese, Nello stesso tempo adesso ce ne sono alcune imprese di Luciano Veneto, una inglese e una italiana, e questo dimostra come sia impressionante il potere economico che hanno, e tutto al prezzo del nostro sudore, del nostro sacrificio, il frutto della nostra terra. Hanno questo potere anche sugli stessi governanti, perché sono il vero potere occulto dietro questo governo. I politici sono la facciata, ma chi realmente dirige l'economia di questo paese sono i grandi impresari transnazionali, capitalisti e imperialisti che sono venuti qui a dominarci e decidono su tutta la politica, tanto a livello locale e regionale quanto a livello nazionale. Questo è il mostro contro il quale stiamo combattendo qui in Puelmapu, il territorio mapuche qui in Argentina, e dall'altra parte della cordigliera, dove ci sono altre comunità di Peña y Lamien che stanno resistendo contro altri mostri transnazionali e in difesa del territorio ancestrale mapuche. Claro, sí. Y otra pregunta te quería hacer, porque los periódicos y los medios italianos hablaron de ti cuando pasó la desaparición y luego la muerte de Santiago Maldonado. I media italiani hanno parlato di te quando è accaduto il fatto della sparizione e morte di Santiago Maldonado, ma quello che hanno fatto è stato riportare quello che scrivevano i mezzi argentini e sudamericani. Quindi, in seguito alle dichiarazioni della ministra Burrich, si è cominciato a parlare del RAM, la resistenza ancestrale mapuche, ma senza approfondire che cosa fosse, ma parlando però di legami con altri gruppi e accuse pesanti a te, o per esempio nel caso della morte di Rafael Nahuel, accusandolo di essere armato e appartenere a questo gruppo. Allora mi piacerebbe che dalla tua voce ci spiegassi che cos'è questa resistenza ancestrale mapuche. La resistenza ancestrale mapuche è un'esperienza de las comunidades mapuche aquí en el sur. La resistenza ancestrale mapuche è un'esperienza delle comunità mapuche qui nel sud, un'esperienza che purtroppo deve essere clandestina a causa del livello di persecuzione e repressione politica che c'è qui e che si fonda sul sabotaggio verso le imprese multinazionali che sono qui e la difesa del territorio. È un'organizzazione che ha fatto un'esperienza organica, che sta dentro il movimento mapuche autonomo del Puelmapu e che riunisce quelli che noi chiamiamo Kona, i Huechafe, i guerrieri del popolo mapuche, e affronta i grandi latifondisti e proprietari terrieri delle multinazionali, ma non è, come dice il governo, nessun tipo di organizzazione armata, né una guerriglia, né niente di tutto ciò. La RAM, come vi dicevo, è piuttosto un processo di autodifesa, di sabotaggio, per dare voce alla difesa del popolo mapuche e al territorio mapuche, con questo elemento molto rustico, basico. Generalmente sono azioni di sabotaggio molto rudimentali, la distruzione di macchinaria e infrastruttura del capitalismo, come appunto la distruzione di macchinario, infrastrutture del capitalismo, di queste imprese, macchinari, installazioni. Generalmente non comprende fatti di sangue, anzi bisogna tenere da conto che gli unici morti sono della nostra gente, sono mapuche. Poi purtroppo c'è stato il caso del compagno Santiago Maldonado, che è venuto a portare solidarietà con noi ed è stato ucciso dalla repressione dello Stato, e ora vengono da noi, vengono dai mapuche a chiedere cosa è successo a questo compagno, quando tutti sappiamo che il corpo è stato messo lì sulla nostra terra da loro stessi, su quel pezzo di terra dove per mesi sono venuti a cercarlo. Nel caso del Peña y Rafael Nahuel, lui stava partecipando al recupero delle terre insieme alla sua famiglia nella zona di Mascardi, e anche lì lui è stato crivellato dalla prefettura, da una delle forze dello Stato argentino che abbiamo qui, un gruppo di elite della prefettura. In seguito hanno arrestato mio fratello e un altro Peña, che cercavano di portare il corpo, se riuscivano a portare il corpo fino al paese, sono stati trattenuti una settimana, e ora cercano di dargli delle accuse in merito alla morte del Peña Rafael. Purtroppo questa è la politica repressiva dello Stato argentino, che è servile agli interessi capitalisti. dove si demonizza tutto ciò che può rappresentare qualsiasi tipo di resistenza di fronte all'avanzata neoliberale capitalista. Certo, anche loro sono molto arrabbiati perché hanno sottovalutato noi Mapuche, ma le popolazioni indigene in generale. Di fatto oggi ci stiamo sollevando con le nostre proprie forze, con il nostro modo di essere, con il nostro proprio, la nostra propria cultura, senza chiedere niente a nessuno. E questo gli dà parecchio fastidio perché è un'esperienza molto autonoma, non come dice il governo, che riceviamo finanziamenti, ma sono le comunità stesse che si rialzano, si organizzano, affrontano e si difendono. Ed è da queste stesse comunità che sono nate esperienze come la RAM, la resistenza ancestral Mapuche, comunità rurale molto poveri, totalmente ridotte alla povertà e all'oppressione, possiamo dire i più poveri tra i poveri di questa regione. E quindi è da qui che hanno iniziato a organizzarsi, a fronteggiare contro il potere devastatore, quello sì che arriva con armi da fuoco, palle di piombo, elicotteri, anche utilizzando granate, come abbiamo appreso da alcune informe che ha scritto Patricia Burrich, la ministra della sicurezza della nazione. Invece la nostra gente resiste con bastoni e pietre. Quindi se c'è una possibilità di opporre resistenza a Mapuche e, come vi ho detto, attaccare questi interessi capitalisti, queste infrastrutture nati e sorti da queste stesse comunità rurali Mapuche, non c'è nessun tipo di questione di infiltrati o di organizzazioni, come hanno detto loro, militari all'occidentale. È un'esperienza dello stesso popolo, propria dello stesso popolo Mapuche. Il Weichafe è sempre esistito, è un'autorità politica, filosofica e storica del popolo Mapuche. Il Weichafe è il guerriero che è sempre esistito nel nostro modo di essere, nella nostra cultura e nella nostra organizzazione tradizionale, e loro sono quelli che rispondono ogni volta che c'è da rispondere di fronte a queste aggressioni brutali e mezzi effettivi che creano questa oppressione così grave che soffriamo da anni, perché sono anni che soffriamo morti e sparizioni, e sono gli anni in cui abbiamo organizzato la resistenza, e questa difesa li fa arrabbiare, tant'è vero che ora non possono più venire con due o tre scagnozzi ad ammazzarci, ma devono mandare le forze speciali, militarizzare il territorio. Ma sono più di 130 anni che stiamo sopportando la stessa violenza e terrorismo di Stato. Claro, sí. Y eso nosotros como red tratamos de contarlo, de hacer pasar el... Certo, noi come rete cerchiamo di raccontarlo, di far passare il fatto che la RAM sia un po' la nuova alibi, il nuovo montaggio per farvi passare da terroristi. Mi piacerebbe sapere qual è il messaggio che puoi mandare agli italiani, perché possiamo partecipare a questa lotta da lontano, ma anche noi conosciamo Benetton, vittime dello stesso sistema anche, e conosciamo bene Benetton perché anche lui sulle nostre terre non si occupa solo di moda, ma è proprietario di autostrade, aeroporti. Allora ti chiedo se hai un messaggio per avvicinarci alla lotta Mapuche, ma anche per denunciare, per esempio, la tua situazione giuridica piuttosto anormale per un paese che si millanta a una democrazia in Argentina. Quindi per darci un messaggio non solo per come partecipare, ma anche come attuare la lotta. Come crees che quali sono le parole che puoi mandare agli italiani solidari che si possano acercare a questa lotta e come possano attuare? Bueno, primero un abrazo fraterno y un agradecimiento grande de su solidaridad, ¿no? Comprendiendo que innanzitutto un abbraccio fraterno, un ringraziamento grande per la vostra solidarietà. Capiamo che in molte lotte storiche la mobilitazione internazionale è stata un apporto molto grande per ricordare fatti storici, come quando i vietnamiti hanno vinto gli Yankee, in un certo modo li hanno vinti anche negli stessi Stati Uniti, con le mobilitazioni di tutti i gruppi solidali mentre loro combattevano in Vietnam. Un esempio importante, interessante, e si bene questi sono hechos políticos, credo che sia un esempio importante, interessante, di quanto questi fatti esprimano, che se in un senso sono fatti politicamente molto diversi, in momenti storici diversi, in un altro le cose si ripetono perché l'oppressore e gli oppressori sono gli stessi e usano le stesse metodologie. E il sistema capitalista continua a essere lo stesso e gli oppressori sono sempre gli stessi, i poveri, i desiderati della terra e della quinta parte del mondo. C'è una correlazione. C'è una correlazione di forza ingiusta tra i paesi del primo e quelli del terzo mondo. Nei paesi del terzo mondo esiste anche un altro livello di oppressione, con le borghesie locali, le imprese transnazionali, i gruppi coloniali e i popoli oppressi che hanno sempre vissuto in quelle terre. Dunque, partendo da questa concezione di tutto quello che ne può sorgere, tutte forme di azioni, tutti i tipi di lotta e di mobilitazione sono importanti e necessari. Questo poi credo che si sviluppi e accada con l'immaginazione e la volontà di ogni tipo di organizzazione di gruppo. È molto importante anche quello che stiamo facendo adesso, la diffusione di tutto ciò che accade, una diffusione che possa rompere il cerchio mediatico per denunciare quello che sta succedendo nel paese, e quindi è importante svilupparlo. Come stavi dicendo, Benetto è in italiano e qui è uno dei nostri dei mostri principali che stiamo combattendo. E credo che sia molto importante che si diffonda tutto, dal livello della repressione brutale della quale è responsabile, ma anche questa alleanza economica che ha con il governo attuale di Macri, come le azioni dei nostri pegni che eroicamente affrontano questa bestia e riescono comunque a ferirla, fosse anche solo con dei graffi, ma qualcosa comunque riescono a fargli. Y logran inferirlo, aunque sea pequeño, aunque sean rascuños, pero algo le logran hacer, y que me parece que desde ahí difundir eso y poder. Quindi credo che da lì diffondere tutto questo e fare tutto quello che si riesce a seconda delle possibilità sia buono. Che questa lotta non rimanga nel sud del mondo, dove spesso non ci sono infrastrutture, non c'è rete di comunicazione. Per questo mi sembra che la solidarietà internazionale sia molto importante. Bisogna capire che la nostra è prima di tutto una lotta umanista, innanzitutto anticapitalista, anticoloniale, antiimperialista, e anche questa responsabilità di coloro che vivono nei paesi di origine dell'oppressore nel primo mondo, di poter identificare il nemico reale e attaccarlo e cercare di farlo crollare in diversi modi, con diverse forme di lotta. Tanto con forme di autonomia, di autogestione economica, politica e sociale, quanto con processi di confronto reale. Tanto con mobilitazioni, azioni politiche, come con quelle giudiziarie. Come vi dico, tutte le forme di lotta sono valide, soprattutto tenendo conto la storia di quei popoli. Anche voi avete questa storia tanto tremenda e triste, ma anche eroica, che è stata quella dell'Italia, che è stata la culla del fascismo, ma anche di grandi processi di resistenza a questo fascismo. E oggi l'Europa è la casa di molti di questi grandi tiranni economici, ma è stata anche esempio di grandi momenti di resistenza. La storia fatta dai partigiani, le storie di tante gesta eroiche dell'umanità, che mi sembra sia necessario raccoglierne l'esempio e metterlo in pratica in modo solidario e umanista. Mi sembra buono e necessario. E anche dire a queste persone di guardare la loro propria storia e tutti insieme affrontare e abbattere questo sistema capitalista e neoliberale che, noi certo qui popoli dominati nei paesi del terzo mondo ci colpisce un po' più forte, ma non smettiamo di riconoscere che ci sono oppressi in tutto il mondo. Quindi credo che bisogna identificarsi in alcune cose ed affrontare questo grande mostro. Di riconoscere che hai opprimido en todo el globo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que identificarse con algunas cosas y poder enfrentar a ese monstruo. Ese monstruo grande. Bueno, Lonco, yo te agradezco mucho también por tu ejemplo de resistencia en esa. Yo te ringrazio molto anche per il tuo esempio di resistenza. Ultimamente tuviste un'audienza. So che tra l'altro nella situazione in cui ti trovi, so che tra l'altro qualche settimana fa hai avuto un'altra audienza per una nuova denuncia per istigazione alla violenza. Com'è andata? Sí, tengo una audiencia nueva porque se condena y se persigue las ideas políticas y por eso que estoy preso. Como es posible que el juicio de extradición caiga por... Sí, una nueva audiencia porque se condenan y se perseguitan las guide políticas. Ed è per questo che sono prigioniero, così come può essere che il processo per l'estradizione cada per un motivo o per l'altro, visto che comunque sanno che la mia detenzione è illegale. Quindi credo che questo già dimostri qual è il vero motivo per cui mi perseguitano per la nostra ideologia. Ed è vero che in questa tappa del capitalismo argentino non c'è libertà d'espressione, non c'è garanzia giuridica. C'è più di un prigioniero politico, e non intendo solo Mapuche, che è prigioniero senza condanna, prigioniero per l'unica colpa della sua posizione politica, e al momento io sono uno di quelli. Mi tengono prigioniero perché vogliono dare un esempio, un timore alla mia gente di cosa succede se continuano ad alzare la voce. Di fatto l'ultima accusa rientra in quello che si può definire a livello internazionale come l'imputazione di delitto politico puro. Puros, digamos, ¿no? delitos políticos, porque la excusa que tienen, digamos, para tratar de extraditarme a Chile es que... Porque la excusa que hanno per estradarmi in Cile è di delitti comuni in un contesto politico, ma siccome la legge di estradizione dice che i delitti politici non sono estradabili, probabilmente finirà che l'estradizione cadrà, ma mi terranno in prigione con tutta una serie di delitti politici, come appunto l'incitazione alla violenza, l'attentato contro l'ordine costituzionale, è un'altra montagna di barbarità. Per quello che ho potuto leggere dalla causa, quando hanno fatto riapparire il corpo di Santiago Maldonado nella mia terra, io ho provato molta rabbia, molta tristezza. Ho fatto delle dichiarazioni alla stampa, chissà, senza pensare, preso dalla rabbia e dalla profonda tristezza. E sicuramente, figuratevi, avrò detto delle cose chissà fuori luogo, ma allo stesso tempo non razionali. E in ese sentido... Entenderte que de que más allá de lo que estén diciendo, nosotros no planteamos una lucha. In questo senso vorrei che sia chiaro ciò di cui parliamo, cioè noi non lottiamo per nessuna presa del potere Winca, quindi del potere dei bianchi, né per la distruzione degli stati formali moderni, piuttosto pianifichiamo una lotta di taglio autonomista, di ricostruzione del mondo e del potere politico proprio delle stesse comunità, e questo processo di liberazione nazionale Mapuche che stiamo portando avanti. Non vogliamo costruire uno Stato Winca, non vogliamo costruire uno Stato unico e tantomeno ci interessa prendere il potere dello Stato di diritto. Questo è quello che diciamo ai cittadini: se vogliono fare le elezioni, cambiare Macri o la forma che decida il popolo argentino povero, il popolo cileno povero, per noi sta bene, ma non entriamo in questo tipo di dibattito politico. Certo, ci sentiamo solidali con i territori, i settori sociali che abitano questi territori occupato dall'oppressione capitalista, ma non sentiamo necessario essere funzionali a certe politiche che poi finiscono per essere complici della costruzione dell'imperialismo. Balcanizzazione che quisiera llevar a cabo seguramente l'imperialismo, no? Nosotros creemos en la derrota del capitalismo. Noi crediamo nell'abbattimento del capitalismo, ma da un'altra prospettiva e soprattutto nella ricostruzione di un potere proprio, perché per arrivare alla distruzione dello Stato capitalista borghese e dell'imperialismo i popoli devono aver sviluppato la loro forma di economia, la loro forma sociopolitica, per non cadere nell'errore di ricostruire queste forme oppressive in cui mi pare che si trovi la maggior parte dell'umanità. La che sta dominando la gran maggioria dell'umanità, no? Entonces por eso nosotros planteamos procesos autonomistas, autogestivos. Per questo noi perseguiamo un processo autonomista e autogestito, e in questo concentriamo più che altro la forza della costruzione politica. Per questo non crediamo in forme di partiti politici mapuche né niente del genere, non crediamo che sia la soluzione ai nostri problemi, crediamo invece che la soluzione ai nostri problemi sia nelle nostre mani. Quindi, bueno, come vi dicevo, noi ci stiamo difendendo perché ci attacca un processo di autodifesa e di conservazione nel nostro territorio, il controllo territoriale e il lavoro con le nostre proprie mani. Territorio, mediante il controllo territoriale e il lavoro con le nostre proprie mani, eso más que nada. Questo più che altro è il progetto politico, la proposta politica che abbiamo reso pubblica, e in questo c'è tutta la nostra proposta di liberazione nazionale. Una proposta politica che si basa sulla ricostruzione delle proprie forme di vita, la vita mapuche in territorio mapuche, convivendo ovviamente con tutti gli oppressi, con il popolo argentino povero e il popolo cileno povero. Chi definisce il popolo mapuche come nemico sono loro, noi siamo solo resistendo al capitale. Il popolo cileno povero, y bueno, los que definen como enemigo al pueblo mapuche son ellos, nosotros solamente estamos resistiendo, como le decía hoy, al capital. Bueno, yo te agradezco mucho por ese tiempo y nada, te comunico que, como te digo, como Red en Defensa del Pueblo Mapuche, lo que hacemos... Io ti ringrazio molto per il tuo tempo e ti racconto che quello che facciamo come Rete in Difesa del Popolo Mapuche è, per esempio, andare in tante città in cui ci hanno chiamato. Questo mese siamo state al sud, dove siamo stati chiamati da tanti, da organizzazioni di gente che vive in piccoli paesi e vede il proprio territorio devastato dai megaprogetti. E questo ci permette di creare reti e relazioni che ci danno la forza per questa lotta e alzare la voce che vogliamo portare. Per questo ti saluto e ti abbraccio forte, Lonco. De verdad mucho de tu tiempo, de tus palabras, y de nuevo muchas gracias, Lonco. Y que esté bien. Un abrazo fuerte. Gracias, Nehuen, ahí fuerza y gracias por todo. Un saluto tanto Nehuen, tanta forza e un abbraccio forte per tutti e per tutte.